pensi con quei soldi che ci faccio? Yeah. Penso mi rendano felice, vuoi il mio cuore me lo strappo. Yeah. Me lo strappo. Che ci faccio? Cena da solo al giappo. Il mio amico dice che è arrivata, arrivo in un lampo. Nonno mi chiamare, scusa adesso non c'è campo. No, non c'è campo. Sono lo stesso, no non cambio. No, non ho patente, non ho l'auto. No, però quando rappo poi ti incanto. Lei mi dice dai almeno provaci. Dico baby voglio coprirti di dollari. Oggi vado in studio quindi parlami. Sì che ci sto sotto Yellow Submarine. Yeah. Per sapere l'ora non mi serve un Rolex. Guardo il cielo frato, guardo il sole. Basta che torno a casa e scrivo una canzone. Che pensi coi soldi che ci faccio? Yeah. Penso mi rendano felice, vuoi il mio cuore me lo strappo. Che ci faccio? Wow. Mille cicatrici intorno al collo, ancora il cappio. Yeah. No, no, no, no. Un gram, yeah, yeah. Tritto mezzo gram, yeah. Penso una whisto, yeah. Pensi di sì, ma ti giuro che il meglio ancora non l'hai visto. In fretta una scritta, yeah. Sull'anno con Cristo, yeah. Sono contento che la gente dica, fra non ti capisco. Presto, baby, fai presto. Questi che stipenderebbero l'anima. Ancora scrivo la storia in camera, sogno in ogni testa, yeah. Ho fame come in Africa e sul piano ci resto. No, no, non mi sono mai sentito come gli altri. No, non sono rapper, fa sembrano commerciante. Loro vogliono l'invito al party. Noi cuciamo i cuori come i sarti, yeah. Per sapere l'ora non mi serve un run. Frate, guardo il cielo oppure guardo il sole. Basta che torno a casa e scrivo una canzone. Che pensi coi soldi che ci faccio?